così, sorridente com'eri, e non triste e scontento, no, forse per colpa del tuo orgoglio. Da quel giorno di primavera non è stato più lo stesso. Forse ti sei sentito solo, ma adesso tutto è così strano che sembra di sentirti urlare da lontano e chiedere qual è la strada da seguire, ma non c'è, devi trovarla te. Forse soffri se ci pensi, non era come ti aspettavi.